Il film tenta di raccontare quello che i media tante volte non dicono, quello che è rimasto dopo questa guerra e qual è appunto l'eredità lasciata dall'ISIS. E come questa eredità si ripercuote nelle vite quotidiane di tutte queste persone che comunque non solo hanno vissuto la guerra in prima persona, quindi non solo le vittime ma anche i combattenti. Quale futuro, ecco, ci sarà per chi... per le vedove e i figli dell'ISIS, questo, diciamo, è l'interrogativo che si pone questo documentario. Senti, che tu sappia, come ha avuto origine il lavoro? Guarda, la Mannocchi da tanto tempo vive e racconta tramite diversi reportage l'Iraq, la Libia e il Libano, quindi questo documentario nasce sicuramente da una sua esigenza proprio di raccontare le guerre e quindi da una necessità proprio di svolgere un'inchiesta sul luogo. Da lì quello a cui è andata incontro ovviamente è stata non solo la nascita di questo di questa guerra, ma anche le colpe che ha lasciato, cioè le colpe che ha lasciato e soprattutto nelle vittime, che poi alla fine sono non solo cioè i carnefici diventano anche in un certo senso delle vittime, ecco. Cosa ti ha convinto maggiormente di questo lavoro? Sicuramente l'altissima qualità e l'approfondimento con cui è stato girato e il fatto che appunto racconta un punto di vista diverso, che è quello di chi ha ereditato questa, diciamo, presunta colpa di essere un figlio dell'ISIS. Quindi l'emarginazione, come viene affrontata proprio la tematica dell'emarginazione, come quanto ancora queste persone vengano comunque esposte a un'esclusione della società che non prevede un loro futuro inserimento, quindi proprio l'interrogativo: cosa succederà? Chi saranno, chi diventeranno nel futuro queste persone così escluse e come unica colpa hanno appunto quella di essere vedove o figli dei miliziani dell'ISIS. Questo documentario, oltre ad essere accompagnato in questo tour in tutta Italia, tocca diverse città. Partiamo con Roma, poi andrà a Milano, a Firenze, a Mantova, a Trento. Siamo ancora in distribuzione, stiamo provando, insomma, a farlo conoscere a più persone possibili ed è possibile continuare a richiederlo. Ma un'altra cosa che mi preme dire è che siamo in una partnership con Un Ponte Per, la ONG attiva da tanti anni in Medio Oriente, con campagne di cooperazione e sensibilizzazione, e la distribuzione di questo documentario sosterrà l'apertura di un centro giovanile proprio a Mosul, uno spazio di aggregazione dove i giovani iracheni e siriani potranno praticare pace e convivenza e comunque incontrarsi. Quindi c'è anche questo doppio legame, questo doppio fine. Chiara, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per seguire i suoi spostamenti? Assolutamente, potete rimanere aggiornati sulle proiezioni seguendo la pagina Facebook di Zalab o il sito internet www.zalab.org, e potete richiedere eventualmente una proiezione contattandoci alla mail distribuzione@zalab.org. Benissimo, allora un ringraziamento a Chiara Tringali di Zalab, che ci ha presentato il documentario ISIS Tomorrow, The Lost Souls of Mosul, di Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi, a Roma all'Apollo 11 dal 12 al 19 settembre, poi al Cinema Farnese a partire dal 20 settembre, ma in tour in tutta Italia. I riferimenti ce li hai dati. Chiara, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci. Grazie presto. Mille. Ciao. Con Roberto Palma, regista del film Box Capitale, che sarà in programmazione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, a partire dal 20 settembre. Roberto, ben trovato. Ben trovati a voi. Buon pomeriggio a voi. Ce lo presenti? Allora, Box Capitale è un documentario sul pugilato romano, che racconta i personaggi che lo compongono, le storie, il passato, il presente, la malinconia, la rabbia, insomma tutto quello che è il pugilato romano. Paradossalmente, se tu pensi, io lo dico sempre, quando una persona che non è di Roma pensa allo sport, pensa a Roma e Lazio, al calcio, mentre invece comunque il pugilato a Roma c'è da più di 100 anni, E diciamo fino agli anni 60, fino agli anni 70, 80 era seguitissimo in Italia, ma soprattutto a Roma. Ora anche, però, insomma, sono cambiati decisamente i tempi. Sì. Quindi parlo un po' di questo all'interno di questo documentario. Com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata, partiamo dal presupposto, io lo dico sempre, che sono comunque un appassionato di pugilato. L'amore per questo sport mi ha portato anche a non seguire più gli altri sport, perché poi il pugilato, io lo dico sempre, quando cominci a seguire questo sport diventa una sorta di droga. Per i praticanti, per i maestri, ancora, chiaramente ancora di più, però per noi appassionati diventa una vera e propria droga. E l'idea mi è venuta, mi venne in una riunione organizzata da Davide Buccioni, che è un organizzatore, forse probabilmente il più importante, il più famoso che c'è a Roma, a Guidonia. Era una manifestazione di pugilato, una riunione di pugilato all'aperto, alla piazza di Guidonia. Era il 2012, io mi ricordo, mi trovai lì, tra virgolette quasi per caso, e lì diciamo partì l'idea, dissi: ma sai che c'è? Mi piacerebbe raccontare le storie di questi personaggi, sono curioso di sapere chi sono, la loro storia e quant'altro. Quindi diciamo è nata da lì. Poi sono stato appunto da andai quando qualche anno dopo ho deciso appunto di fare questo documentario, sono andato poi da Davide Buccioni che mi ha diciamo illustrato, mi ha cominciato a guidare, a dirmi: vai lì, vai in quella palestra, intervista quel pugile, intervista quel vecchio maestro, e da là insomma è partito tutto. Poi ogni personaggio mi ha portato a un altro personaggio, una cosa bellissima. Quanto tempo ti ha richiesto la lavorazione tra interviste, sopralluoghi? Guarda, allora, io ovviamente faccio filmmaker di professione, regista, e ovviamente io avevo altri lavori, questa è stata una mia iniziativa, diciamo, in un primo momento assolutissimamente singola, privata, diciamo così, personale, e comunque un paio d'anni ho fatto tutto, Sì. girato, montato, tutto. Uno dei dati Un che emergono dalle parole di uno degli intervistati è che le società e le palestre rispetto al 2004, nel 2015 sono triplicate. Quindi comunque c'è un nuovo, sembra un nuovo interesse. Assolutamente, purtroppo l'interesse però è solo per l'allenamento, perché comunque il pugilato ha un allenamento, soprattutto molte persone vanno a fare la softbox, ha un allenamento importante, diciamo che si mette parecchio in forma, però purtroppo sì, sono aumentati i tesserati, sono aumentate le palestre, però purtroppo nel professionismo c'è ancora molto molto molto da crescere per ritornare, diciamo, ai fasti di un tempo, ecco, ma siamo lontani, però insomma c'è tanta voglia, c'è tanta determinazione, ci sono tante belle storie da raccontare, perché poi sai, quando un pugile, magari qua in Italia questi ragazzi non è che guadagnano chissà quanto facendo il pugilato, anzi guadagnano pochissimo, quindi è uno sport che fai per vocazione. Però comunque quando vinci in queste condizioni, forse il premio vale 10 volte di più, ecco. Qual è stata la maggiore soddisfazione e anche le sorprese nel girare questo documentario e raccontare questa storia? Allora, la maggiore soddisfazione è stata quando alla fine di una proiezione che avevamo fatto, un vecchio pugile, di più di quasi sull'ottantina, con le lacrime agli occhi mi ha abbracciato e mi ha detto: ti voglio bene. Questa è stata la cosa più bella. La mia soddisfazione personale è stata quella di raccontare un mondo che mi ha appassionato e di voler condividere questa mia passione con lo spettatore, ecco. Hai fatto anche delle scoperte curiose indagando e intervistando? Sì, aneddoti simpatici ce ne sono parecchi, però non voglio fare spoiler. Certo. Senti, è stato presentato al Roma Independent Film Sì, Festival. esatto, lì, sì. Ebbe fra l'altro, non più niente, ebbe un ottimo successo, chiamarono diverse testate, perché comunque in Italia è difficile che esca qualcosa, un film, un documentario sul pugilato, ripeto, purtroppo è uno sport che è stato un po' troppo accantonato, secondo me, mentre invece all'estero è seguitissimo, in molti paesi è seguitissimo, vorrei farti degli esempi incredibili.

di Armand Dix, degli olandesi Armand Dix e Ray Collins, ma ogni sera insomma ci saranno artisti che vale la pena appunto venire a vedere, perché presenteranno tutti opere mai viste prima, quindi che dire, solo vedendole si può descrivere quello che sarà. Sì, sì. Senti Claudio, quindi nel complesso quanti saranno gli eventi? Gli eventi sono 8 in totale, 8 live performance, okay, più gli screening ogni giorno, anche quelli, e a completare il programma c'è anche un workshop gratuito sul digital storytelling che ogni pomeriggio dalle 5 alle 7 si terrà nella sala dell'auditorio del Palazzo delle Esposizioni. Quindi chi vuole ancora partecipare può inviare una email a info@lagcinemafestival.com. il workshop è gratuito, come anche tutto il festival. L'ingresso appunto è gratuito, anche se abbiamo invitato tutti a iscriversi e prenotare un ticket, perché si prevede per la capienza limitata, su tutte le serate si prevede sold out, quindi chi prima arriva, diciamo così, è avvantaggiato. Allora, in chiusura ci dai anche tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, assolutamente. Potete andare a vedere il programma e studiare un po' gli artisti e quello che presenteranno sul sito www.livecinemafestival.com. Perfetto. Allora, ricordiamo la quinta edizione del Live Cinema Festival a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 20 al 23 settembre. Un ringraziamento e un saluto al direttore Claudio Guerrieri. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, ciao. Ciao. Con Manolo, uno dei partecipanti all'iniziativa dal titolo Cinema Chiusi a Roma. A Roma, alla Casa della Città, il prossimo 21 settembre. Manolo, ben trovato. Ciao a tutti, grazie per l'iniziativa e grazie dell'invito. Raccontaci. Allora, io sono uno degli 8, chiamiamoli così, esodati dell'ultima tranche di licenziamenti che sta avendo luogo da diverso tempo a Roma. Si stimava, con il sindacato del quale faccio parte, la Pubblica Informazione, si stimava che negli ultimi 15 anni abbiamo avuto una chiusura di circa 46 cinema nella città di Roma. Che cosa succede? Che a giugno 8 persone vengono licenziate aprendo una procedura di licenziamenti collettivi da parte della Circuito Cinema SRL, società per la quale lavoravo. Faccio appunto parte di questi 8 a fronte di una crisi dichiarata da diverso tempo, soprattutto a fronte della chiusura del cinema maestoso. Cinema maestoso che prevedeva un utilizzo di 4-5 unità ed era una delle sale, diciamo, principali della Circuito Cinema, nonché prima multisala a Roma, che se non ricordo male la datazione risale al 91-92, diventa la prima multisala di Roma. Ora, attenzione nel caso del maestoso in particolare, perché il cinema maestoso in realtà viene acquisito da fonti ignote, e con i vari incontri che abbiamo fatto alla regione, tutti dalla commissione cultura del comune alla proprietà dell'immobile, assicurano in qualche maniera che verranno fatti dei lavori di ristrutturazione e che le sale del maestoso potranno riaprire nel 2019. Ora, il grande problema che nasce da questa assurda gestione della cosa, che a livello, non voglio entrare in una polemica, come dire, di carattere economico, però mi viene da ridere, perché queste sono politiche assurde di un capitalismo che non prevede proprio altre soluzioni, che invece ci sarebbero, ci sarebbero proprio a livello legale, perché a noi è stata rifiutata la possibilità di continuare a lavorare o di essere messi in una sorta di cassa integrazione, perché la Circuito Cinema ha evitato proprio di utilizzare gli opportuni ammortizzatori sociali che, torno a ripetere, per legge sono previsti, e quindi qualcosa in realtà poteva essere fatto. Ok. Come si svolgerà questo incontro? Sono stati invitati diverse figure dagli assessori alla crescita culturale, allo sviluppo economico, al turismo e al lavoro, la presidente della Commissione della Cultura di Roma Capitale, gli assessori al lavoro, la programmazione economica della Regione Lazio, l'ANEC, cioè i presidenti dei municipi. E a cosa mira questo incontro? Mira a capire dove si può andare legalmente e soprattutto quale ruolo le istituzioni che tanto hanno fatto promesse, perché lo ripeto, gli incontri alla Regione sono stati correlati da promesse da parte delle istituzioni di una supervisione, specialmente per quello che riguarda, scusate se te lo ripeto, la situazione nello specifico del cinema maestoso. In realtà non è un problema solo del cinema maestoso, in realtà è un problema che investe diverse catene, quindi non è un problema solo ed esclusivamente del nostro circuito. Lo scorso anno chiuse il Cinema Fiamma, un importantissimo cinema a Via Bissolati nel centro della città, ma non dimentichiamo che vendite all'asta del Cinema Adriano, dell'Ambassade, dell'Atlantic, come noi riportiamo con tutta l'informazione che facciamo sui nostri volantini e su tutta la divulgazione nella quale ci stiamo adoperando. Quindi il fine, diciamo, è cercare di capire se ci si deve rassegnare come un evento di natura quasi inconfutabile o cosa si può fare tramite le istituzioni. Istituzioni le quali, ripeto, continuano a promettere un intervento e quantomeno una partecipazione agli inviti che facciamo, e quindi si cercherà di capire in questa sede chi sta da quale parte e vedere cosa si può fare. Sì. In chiusura, Manolo, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Allora, Cube Informazione e cuberegionelazio.it. Il 21 settembre dalle 9 saremo appunto a questo incontro alla Casa della Città a Via della Moletta 85. Per quanto riguarda, sì, credo di averti detto tutto, sì, cuberegionelazio.it, e trovate insomma informazioni su quello che sta accadendo nella realtà degli esercizi cinematografici. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci sentiamo per gli aggiornamenti. Io ti ringrazio tantissimo e un saluto a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Con Nicola Curtoni, autore insieme ad Emilia De Santis del libro Alla ricerca della sala. Nicola, ben trovato. Sì, grazie, ben trovati a voi. Com'è partito tutto? Tutto è partito più di 3 anni fa, perché lavoravo in Francia, ero responsabile della programmazione di un multiplex in Francia, indipendente, e ho conosciuto 2 ragazzi. Abbiamo fatto un giro di Francia e d'Europa del cinema. Quando sono tornato in Italia, prima di iniziare a lavorare qui, volevo capire un po' i cinema italiani che cosa facessero. E con Emilia De Santis ci siamo incontrati proprio su questo progetto. Siamo partiti in macchina un anno fa per visitare 48 cinema in 50 giorni. Quindi praticamente ogni giorno visitavamo una sala diversa, intervistavamo gli esercenti, da Milano sino a Sciacca e risalendo poi fino a Pordenone. È un progetto, il viaggio è stato completamente autofinanziato e indipendente, e abbiamo condiviso poi quello che abbiamo scoperto, prima su un sito internet e adesso il libro Alla ricerca della sala. Il 19 sono a Varese, è una sala che non ho visitato, il

quindi ero contentissimo perché dopo 3 anni di oceano ritornare sul Mediterraneo è stato come andare alle terme. E questo continuando sempre a aggiornare i profili Facebook e Twitter e Instagram del Giro del Cinema per condividere questa esperienza e aggiornando piano piano anche il sito internet. Abbiamo raccolto un'altra cosa che poi si è pubblicata nel libro, l'angolo delle idee, che è la raccolta delle idee più interessanti che abbiamo trovato. Il libro ci guida attraverso un lessico molto accessibile. Sì, mia zia mi ha detto che assolutamente non è una cinefila, ha detto ma dai, ma sai che è anche divertente. Un bel complimento, perché sul questo argomento non ci sono libri e su come gestire una sala cinematografica è molto difficile trovare del materiale, però se sei appassionato di cinema magari ti potrebbe interessare anche ma come arrivano i film, come li si sceglie, come sono gli altri cinema non della mia città, e sul consiglio di alcuni esercenti che ci dicevano il vostro sito è molto bello però meriterebbe un piccolo libro, e quindi abbiamo deciso di uscire con questa pubblicazione. È già disponibile online sul nostro sito girodecinema.it. E avete pensato adesso anche a un giro di presentazioni del libro? Sì, siamo in giro, le prossime sono il 19 settembre a Varese, il 27 settembre al Belcade di Milano, ci sarà una tappa a Tirano dove lavoro il 27 settembre, saremo alle giornate del cinema d'autore della FICE a Mantova dall'8 all'11 ottobre, e l'11 ottobre anche una data a Milano a Cine Wanted. Siamo aperti ad altre proposte, è un argomento molto particolare ma interessa, quindi okay. Ci sono ascoltatori che sono interessati anche a organizzare delle presentazioni, ci possono scrivere sui social tranquillamente. Allora, i riferimenti ce li hai dati, ricordiamo il libro Alla ricerca della sala di Nicola Curtoni ed Emilia De Santis, del quale ci saranno adesso una serie di eventi di presentazione. Nicola, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Va bene, grazie, buona serata. Albert Bucci, direttore del Soundscreen Film Festival Play the Movie, a Ravenna, Palazzo del Cinema e dei Congressi, dal 22 al 29 settembre. Albert, ben trovato. Ben trovato anche a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Presentiamolo. Ma molto semplice. Festival di cinema con musica protagonista, concorso internazionale con 8 anteprime da tutto il mondo, tra cui mi piace segnalare un Michael Jackson che ossessione i sogni di un imam egiziano, tra cui mi piace anche ricordare una Maura Rocchettara in pensione che torna sul palco, un documentario sugli Slam for Bass, grande gruppo punk inglese, e soprattutto il nostro fiore all'occhiello che sono le scenarizzazioni dal vivo di grandi film muti. Quest'anno avremo Lo sconosciuto di Todd Browning, scenarizzato dai Ronin, è uno oscuro horror bellissimo giapponese del 26 da un gruppo bolognese dei Kyo. E in più c'è sempre un'etichetta che ci distingue, quest'anno il festival omaggio due figure simboliche dell'unione tra cinema e musica che sono John Carpenter, che ha compiuto 70 anni. Perché Carpenter? Perché oltre che essere il grande regista che tutti sappiamo, è anche un grande musicista. Tendenzialmente ha composto le colonne sonore di tutti i suoi film, tranne in particolare di uno, che sarà il nostro film d'apertura, che sarà La Cosa, The Thing. Perché? Perché la colonna sonora gliela scrisse un altro grande novantenne che si chiama Ennio Morricone, che anche lui il festival dedica una rassegna e un omaggio. Nel complesso quante opere quindi? Ma tra film lunghi e corti siamo sulla quarantina, non solo durante la settimana del festival, perché avremo anche delle estensioni temporali di retrospettiva lungo tutto il mese di ottobre, però sì, una 40 film li potete vedere. A che edizione siamo? Terza, siamo al numero 3. Siamo al numero 3, in base anche a tutto il materiale tra cui scegli. Che impressione hai rispetto al rapporto tra cinema e musica? In realtà c'è sempre stato, sì. È un rapporto sotterraneo, da quando dal vivo. Quando è diventato sonoro è inevitabile, è chiaro, l'immagine è l'arte di principale di riferimento, ma il cinema è immagine e suono. È un rapporto che noi semplicemente mettiamo a fuoco e a luce, ma è un rapporto che c'è sempre stato e che di volta in volta è anche uno dei motori fondamentali per cui un regista, uno sceneggiatore decidono di raccontare una storia. Ma non è nulla di misterioso, è solo un particolare punto di vista che noi abbiamo sul cinema, ecco, tutto sommato. Ed è però nel tempo un grandissimo rapporto che è molto interessante vedere, anche non solo nei semplici documentari o nei biopic musicali, per esempio faremo anche un biopic su Morris e degli Smiths, ma è anche proprio tutto un legame interno fatto di creatività che è bello esplorare e rendere appunto esplicito e manifesto al pubblico. Albert, come sarà strutturato? Come sono articolate le singole giornate? Ma le singole giornate sono abbastanza tranquille, nel senso che durante la settimana abbiamo proiezioni serali a gruppi di due film, di solito concorso e retrospettiva o evento speciale. Sì. Sabato e domenica invece è giornata piena da 5-6 proiezioni. Fra l'altro, vi ricordo anche uno dei nostri eventi, anche l'unico film concerto che facciamo è un concerto estremamente raffinato, è Ryuichi Sakamoto in concerto a New York. Questo perché? Perché non esistono solo i grandi gruppi rock, ma esistono anche i grandi compositori di musica film come appunto Sakamoto. Sì. E per seguirvi ci dai tutti i riferimenti web? Molto semplice, soundscreen.org. Benissimo. Ripetiamo allora la terza edizione del Soundscreen Film Festival Play the Movie a Ravenna, Palazzo del Cinema e dei Congressi, dal 22 al 29 settembre. Un ringraziamento e un saluto al direttore Albert Bucci. Albert, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, un bocca al lupo anche a tutti voi e veniteci a trovare. Grazie. Con il professor Massimo Lanzaro per parlare della sesta edizione del Perso Film Festival, Perugia Social Film Forum. Massimo, ben trovato. Grazie, grazie, ben trovati altrettanto. Lo presentiamo? Sì, è il Perugia Social Film Festival, è un festival internazionale di cinema documentario a tematica sociale che si terrà dal 20 al 30 settembre in tutti i cinema del centro storico di Perugia. Sì. La data inaugurale il 20 settembre, in cui ci sarà un convegno su cinema e psichiatria a cui io parteciperò. Sì, sì. Ed è, questo festival è organizzato dalla Fondazione La Città del Sole, il cui presidente è Stefano Lulli, che è un regista e sceneggiatore di fama internazionale. Sì, sì, sì, conosciamo. Pensi che sì, ha sceneggiato Mary per sempre, Portaborse, La meglio gioventù, Romanzo criminale, Educazione sì. siberiana, insomma, una persona di uno spessore internazionale. Ha vinto 4 David di Donatello, in particolare uno per il miglior film documentario, un lungometraggio che si chiama Un silenzio particolare. Il festival prevede un concorso con 18.000 euro di montepremi per 5 categorie, 2 retrospettive fuori concorso, una delle quali appunto dedicata alla tematica psichiatrica. Nel complesso quante opere saranno presentate? Così più o meno una cinquantina. Una cinquantina. E rispetto, ecco, alla parte dedicata al rapporto tra psichiatria e cinema, cosa ci puoi dire? Innanzitutto, durante il simposio di giovedì verranno presentate 3 esperienze particolari, una che è inerente al Perso Film Festival, una che è la Asperger Film Festival, che è un festival di cinema cortometraggio interamente organizzato da persone affette da sindrome di Asperger. Coincidenza vuole che ieri Susanna Tamaro, ha fatto outing, come si suol dire, e ha un po' su tutti i giornali ha dichiarato di essere affetta da sindrome di Asperger. E questo festival che viene presentato a Perugia si tiene nella prima metà di dicembre al Maxi di Roma. Per quanto riguarda internet, dove si possono prendere informazioni per il festival? Verso filmfestival.it. Perfetto. Come saranno organizzate? Sono 11 giornate, una giornata tipo come sarà organizzata rispetto alle proiezioni? Ci sono proiezioni dalle, allora giovedì 20 alle 21:30 c'è il film di apertura. Sì. Che si intitola STK Complex, che è un film sul movimento dell'antipsichiatria tedesco. Sì. Interessante, è un argomento interessante. Sì. E poi da venerdì 21 ci saranno proiezioni dalle 17 fino alle 20:45 o alle 21, quindi 4-5 proiezioni giornaliere, come sì. dicevo, nei cinema del centro storico di Perugia. Bene. E allora ricordiamo la sesta edizione del Perso Film Festival, Perugia Social Forum, dal 20 al 30 settembre in vari cinema della città umbra. Un saluto e un ringraziamento allo psichiatra Massimo Lanzaro, che fa parte anche di una delle giurie. E Massimo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi saluto, grazie a voi. Siamo con Bruno del Centro Sociale Ricomincio dal Faro a Roma per parlare dell'avvio della nuova stagione della rassegna Voce Volto a partire da giovedì 20 settembre con cadenza settimanale tutti i giovedì. Bruno, ben trovato. Grazie Federico, grazie sempre per la tua disponibilità. Se vuoi posso iniziare subito a parlare della rassegna. Sì, presentacela, certo. Sì, come al solito, da 7-8 anni più o meno abbiamo deciso di proiettare i film al Faro solamente in lingua originale, quindi diciamo ogni settimana c'è un film, tra cui può anche capitare un film in italiano, quindi non è che c'è questa discriminazione. C'è un film che viene proiettato sul nostro schermo in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Sì. E quest'anno per la prima volta c'è insomma una novità significativa, cioè abbiamo deciso di fare due proiezioni giovedì, mentre invece se ne faceva solamente una prima, che era intorno alle 9:30. Abbiamo deciso di anticipare il tutto, ci sarà la proiezione del film della rassegna Voce Volto alle ore 20:30. Inizieremo con Il sale della terra, il film documentario sul fotografo Salgado, con la regia dello stesso Salgado e di Wim Wenders. La possibilità che diamo quest'anno è quella di abbiamo deciso di mettere un film che particolarmente ci è piaciuto, comunque di solito di registi indipendenti, che riteniamo noi meritevole insomma di essere proiettato diciamo a mo' di palinsesto. Quindi questo mese inizieremo con il film Il fattore umano di Marco Alemanno e Francesco Rossi, che è un film che ha girato insomma abbastanza diciamo nei nostri circuiti, che racconta un po' la vita fotografica e politica di Lano D'Amico, un fotografo che a noi del movimento è molto caro, no? Penso. Anche tu, non so se ci hai avuto modo di vedere quel film. Tu. Sì, sì, visto. Quindi daremo la possibilità ogni mese, questo nei mesi caldi, diciamo, fino a che sarà possibile farlo nella sala grande, di poter vedere, diciamo, un film come questo qua, ad esempio, di Francesco Rossi e di Marco Alemanno, Il fattore umano, che sarà replicato ogni giovedì dalle 22:15 circa, cioè subito dopo la proiezione del film che è in rassegna. Ci sarà la possibilità di vedere il film, chiaramente ingresso gratuito, con la possibilità di incontrare i registi per quanto riguarda i film delle 10:15. Quindi insomma penso un'ottima possibilità sia per gli autori ma anche per i fruitori, insomma, chi non ha visto quel film, che è molto bello, avrà la possibilità di vederlo, o magari se l'ha visto di passare voce agli amici: guarda, la prossima settimana se vuoi c'è la replica, lo puoi vedere. Era un po' un'idea che ci aveva preso, insomma, l'idea di entrare, insomma, in una logica di programmazione. Ci sono già dei titoli a questo proposito rispetto alla programmazione? Ci sono già dei titoli fissati? Sì, guarda, una cosa che ti posso dire è che il prossimo film sarà Figli come noi, il film di Rosso Fiorentino, che anche quello, insomma, ha avuto possibilità di girare nei nostri circuiti, ma che secondo me non ha girato ancora abbastanza, non è stato visto da tutti e merita di essere visto, sia per i temi trattati che per lo sforzo che l'autore ha fatto per poterlo portare, diciamo, a conclusione come progetto. A questo punto, per saperne di più sulla programmazione, ci dai anche i riferimenti web? Sì, chiaramente ci sono Ricominciare a Faro Facebook, la pagina dedicata che è Cinema Faro Info Proiezioni, una pagina linkata, la trovate facilmente. E poi comunque, ad esempio, come questo mese c'è stato l'articolo di Contropiano online e l'articolo di Dinamo Press su questa cosa, quindi anche chi legge, diciamo, la stampa online può trovare facilmente informazioni su questo. Comunque, per non sbagliarsi, sicuramente la pagina Facebook del Faro, dove ci sono tutte le informazioni. Allora, in chiusura, la dai tu l'annuncio, la prima scadenza, il primo appuntamento? Sì, allora, il primo appuntamento è alle ore 20:30 di giovedì 20 settembre, Il Sale della Terra, il film sul fotografo e sulle fotografie di Salgado, con la regia dello stesso Salgado e di Wim Wenders, e alle 22:15 circa inizierà questa nuova formula con il film in replica tutti i giovedì, Il Fattore Umano, film documentario su Tano D'Amico e sulla fotografia di Tano D'Amico, per la regia di Marco Alemanno e Francesco Rossi. Questo film rimarrà in replica tutti i giovedì fino all'11 di ottobre. E poi il 27 c'è Dogman, il 4 ottobre c'è Lady Bird e l'11 ottobre, in conclusione, Tonia. Perfetto, i riferimenti ce li hai dati. Ricordiamo il nuovo inizio della rassegna Voce Volto al Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro a Roma, nel quartiere del Trullo, a partire dal 20 settembre. Un saluto e un ringraziamento a Bruno e ci sentiamo per le prossime novità. Sì, grazie Federico, un abbraccio. Ricorda che l'ingresso è assolutamente gratuito. Perfetto, ciao Bruno. Ciao, grazie. Siamo con Fabio Mancini per parlare della nuova stagione di Doc 3 dal 28 giugno al 4 ottobre, curata appunto da lui con la consulenza di Luca Franco. Fabio, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie per averci chiamato per questo nostro appuntamento. Eccoci. Allora, quanti lavori e con che cadenza? Guarda, quest'anno ne abbiamo 14, saranno il giovedì in seconda serata, quindi una seconda serata che per questi primi appuntamenti intorno alle 11:10 poi si sposterà un pochino, perché la seconda serata di Rai 3 cambierà e avrà una composizione diversa, quindi saranno un po' più tardi. Comunque sono 14 titoli, come al solito, italiani, internazionali, esordienti e così, maestri affermati. Abbiamo cercato di lavorare in maniera ampia. Anche sulle tematiche? Guarda, sì, le tematiche ci siamo mossi, spero, in maniera interessante, anche dal punto di vista, come posso dire, dal punto di vista dell'idea del documentario. Alcuni sono documentari proprio puri, quelli che conosciamo, ti posso dire alcuni titoli. Abbiamo What Walla Walks, che ovviamente ha avuto moltissimi premi, la storia di questa giovane ragazza palestinese che vuole fare la poliziotta, oppure abbiamo altri titoli come Sufra, prodotto da Susan Sarr,